Massimiliano è referente della rete Euromayday. Ecco, i primi due interventi hanno sottolineato il fatto che c'è una parte normativa del lavoro da rifondare, c'è un paese da riformare completamente. Mi verrebbe da dire, ma nel frattempo noi precari che facciamo? Voi siete stati tra le prime realtà a occuparsi di precariato e a far accedere al dibattito politico questa tematica. Volevo chiederti quali sono le esperienze e le forme di organizzazione che avete sviluppato e sperimentato per quanto riguarda i lavoratori precari, e poi se c'è un po' di tempo a margine, se ci puoi spiegare un attimo cos'è il welfare metropolitano, la vostra proposta di reddito di base. Vi chiedo di rispettare il quarto d'ora, diciamo. Grazie. Ma devo parlare al microfono perché state registrando o posso parlare? Non ne ho idea. C'è qualcuno che ha idea? No, io preferirei senza. Tanto mi sentite. Preferirei parlare senza microfono. E Andrea Fumagalli non è potuto venire, è un docente di economia. Io sono un agitatore professionale, non professionista, perché sono una partita IVA, sono un fattorino della moda in partita IVA. La differenza fra professionale e professionista è nota, uno viene pagato, l'altro no. Però magari fa le cose per bene. Non lo so, ci sono tanti spunti interessanti, su molti mi trovo d'accordo, su altri no, su altri a metà. Comunque fondamentalmente vorrei rinquadrare tutto quello che alla fine hanno detto in una, come dire, in una logica di pensiero un po', diversa. Allora, la prima domanda che è stata fatta è stata: ma perché non ritornare ad un sistema di civiltà che tiene conto del tempo indeterminato? La risposta, secondo me, non è stata esaustiva. Fondamentalmente si diceva: 15 anni fa c'erano delle disoccupazioni altissime, 13-14%, che poi con l'introduzione dei contratti atipici sono stati assorbiti fino a percentuali di 7, 8 o 9%. Questo è sicuramente un dato vero, però alla luce dei fatti, i fatti ci dicono che negli ultimi 10 anni l'Italia è cresciuta dello 0,1%. Appena si è affacciata la crisi, ieri Draghi, con Tremonti che si duettavano, come dire, come i ricchi e i poveri, dicevano: sì, ma siamo tornati all'11%. Risultato? Siamo tornati a una situazione di 15 anni fa, con una crescita dell'Italia che è stata praticamente nulla o comunque dello 0, qualcosa, con uno spostamento incredibile dei, come dire, dei salari fino ai profitti. Quindi in teoria si potrebbe pure tornare al tempo indeterminato, tanto non è molto cambiato, a parte un peggioramento oggettivo. Eppure è vero, non si può tornare al tempo indeterminato. Ma c'è un'altra ragione. Il tempo indeterminato era la cristallizzazione di uno scontro di civiltà di due idee diverse, di come ottenere profitto e come ottenere diritti. Erano due visioni inconciliabili, ma per molto tempo il contratto a tempo indeterminato è riuscito ad essere questa sintesi. Questa sintesi è finita. Nel senso che una parte è prevalsa sull'altra, il contratto a tempo determinato, come appunto come cristallizzazione, come idea generale, una volta che è stato sconfitto, come tutte le idee che vengono sconfitte, non può essere più riproposta nella stessa maniera. Non che non si possa parlare di diritti per tutti o di una ripresa di conflitto che porti, come dire, a una giustizia sociale. No, non è questo il punto, lo si può fare. Ma se un'idea viene sconfitta, voglio dire, questa idea non è stata all'altezza del tempo, non è stata all'altezza, come dire, delle sfide che si sono venute a verificare in Italia, nella globalizzazione, nel mondo, nelle trasformazioni del tessuto sociale da altro, territoriale ed altro. Cos'è che è successo? È successo quello che sappiamo tutti, la globalizzazione. In pratica, con questa crisi, ma non è molto difficile. Neanche capirlo, voglio dire, non sono un economista, ma è abbastanza, come dire, abbastanza semplice. Cioè, l'Italia si è degradata all'interno della filiera produttiva, cioè la produzione non è più una roba, una questione nazionale, è dispiegata all'interno di un mercato complessivo globale, e questo rende, come dire, si produce in Cina, come dire, la parte immateriale viene prodotta da altre parti, c'è la ricerca e lo sviluppo, c'è un'informatizzazione, c'è la logistica, insomma c'è un sistema complesso di produzione che parte dalla sua idea materiale fino all'idea immateriale che, voglio dire, riempie la merce di un'anima, e quest'anima costituisce il modo con cui viene venduta un prodotto materialissimo, ma che viene completato da un'idea, si chiamano brand, insomma c'è una filiera globale globale, e all'interno di questa filiera l'Italia sta scivolando. Sta scivolando, questo è già stato detto. È per questo che noi abbiamo Berlusconi, non per altro. Serve un modello autoritario per far ingoiare agli italiani il fatto che saranno molto peggio di prima. Non è che ci sono tante. E perché la sinistra va ancora nel buio? Perché, cioè, questo è un dato oggettivo. Stiamo progressivamente perdendo posizione all'interno del mercato, come dire, globale, e la nostra posizione ci rende, la nostra nuova posizione ci rende più poveri. Allora, parlare di reddito e di leggi è come parlare di un sofficino Findus. Cioè, come dire, è una roba che devi scongelare, è una roba noiosissima. Io ho letto la cosa agghiacciante, scusa, non lo dico. Se leggete la proposta di Chino, è agghiacciante. A parte che è citata 20.000 volte questa espressione somma positiva. Cioè, ci guadagnano tutti. In un paese in cui praticamente ci perde la stragrande maggioranza, cioè per una certa normativa tecnica, giuslavorista o di sostegno, come dire, al reddito è un po' forte, come dire, di ammortizzazione dei licenziamenti, a un certo punto sembra che ci debbano guadagnare tutti. Non è vero. Fondamentalmente è una cosa impossibile. Certamente può essere elaboratissima dal punto di vista, come dire, normativo, tecnico e via così. Il problema è che ci sono poi delle realtà, cioè una realtà oggettiva, che è quella che viviamo tutti i giorni, che ci dice che le cose non sono semplicemente applicabili per una volontà, come dire, per una buona volontà di qualcuno che propone la norma e la tecnica giusta. E qua si entra sul punto. Adesso qua riparto dalla questione della Medea, dal percorso che mi è proprio, poi tutti i puntini si uniranno, spero, nella maniera adeguata. La Medea iniziò in contrapposizione ad un percorso romano, in verità non troppo in contrapposizione a un percorso romano, comunque fra le tante tematiche, che era un percorso che rivendicava reddito nella fine degli anni Ottanta, si chiamava Reclaim the Money, ed erano delle parade simili alla Medea. Quello che invece si fece a Milano, diversamente, era la constatazione che c'era una precarietà dilagante. E questa precarietà, in una certa maniera, qualcuno doveva affrontarla. Doveva affrontarla semplicemente non con delle affermazioni generiche d'altro, ma introducendosi, mettendo, come si dice, le mani nella merda, introducendosi all'interno di questo tessuto e cercando di fare conflitto, di andare a rivendicare i diritti subito dove era possibile, fondamentalmente. Tant'è vero che si è instaurata una battaglia culturale che io pensavo fosse vinta, ma stasera comincio a pensare che forse dovrebbe. Si diceva, cioè, che magari deve essere ancora per l'ennesima volta precisata, si diceva, ma come mai nella fine dell'Ottocento il proletariato era quell'insieme di condizioni, di corpi che andavano a costituire la classe operaia, e mo' il precariato è la sfiga? E si dice contro il precariato, ma avete mai sentito, cioè, come sarebbe stata interpretata una frase contro il proletariato nella fine dell'Ottocento? Su posizioni conservatrici. Allora perché contro il precariato, come dire, non deve tenere conto, come dire, di una nuova soggettività che per quanto atomizzata, che per quanto ricattata, generazionalmente senza beni concettuali e difensivi, senza la presenza dei sindacati nei luoghi di lavoro, comunque una condizione che poteva generare, come dire, soggettività di tipo differente. Allora la Medea ha cominciato a ragionare in maniera contraria, non, come dire, contro il precariato, ma creare un punto di vista del precariato, ossia dell'insieme dei precari e delle precarie. Cosa abbiamo fatto? A parte ci si è inventato San Precario, tutta questa cosa qua. Nell'arco del tempo si è cercato di dialogare con i diversi sindacati per far capire che, insomma, era necessario intervenire in tutti quei luoghi di lavoro dove appunto il sindacato era diventato ombra, dove non esisteva. Perché si diceva, mazza, è vero che continuate a tutelare tutta una parte di lavoratori, ma se l'altra parte di precari aumenta, questi lavoratori saranno sempre più deboli. State attenti agli scambi che andate a fare, perché il vostro potere si erode nel momento in cui si erode quella parte, come dire, che rappresentate. Il punto San Precario, adesso non la sto a menare, perché questa è tutta. Il punto San Precario, con un'enorme difficoltà, ha cominciato a vincere in fiera, con 300 lavoratori negli aeroporti. Negli aeroporti di Linate, questo ne vado fierissimo, non c'è nessun, nel CRAL, che sarebbe il centro ricreativo, non c'è nessun simbolo sindacale, c'è solo San Precario. Perché San Precario ha vinto in ogni ordine di luogo contro, facendo irruzioni, occupando la sala, rimettendo in moto quei meccanismi di sindacalismo in maniera completamente diversa, voglio dire, a quello che sono le pratiche tradizionali. Certo, li facciamo anche noi picchetti, ma noi facciamo delle cose diverse. Questa non è un po' lunga da spiegare adesso, neanche lunghi. Noi andiamo ad incidere su quelli che sono i meccanismi di valore delle aziende. Abbiamo, in una certa maniera, non si può dire perché potrebbero legarmi qua fuori adesso, comunque abbiamo ripreso quella pratica, come dire, di sabotaggio. Vai a danneggiare il profitto delle aziende. Generalmente le aziende, vi posso dire, che cedono, ma dopo poco, cioè in maniera velocissima, cedono. Ma non vi sto parlando di 1, 2, 3, 4 vertenze, vi sto parlando di decine, decine, centinaia di vertenze. Cioè, adesso su questo si potrebbe andare. Un'ultima considerazione su questo importante, vi potrei, cioè, qua dovrei enumerarle perché sennò sembra che si stanno facendo. Vi sto parlando di centinaia di persone negli aeroporti, ma nella Sagat, Swissair, nella Fiera, nella Mondial, anche in battaglie metà vinte, metà perse con Wind, persi in Omnia, però si è perso, come dire, in una certa maniera, con decine e decine di altre persone, zona Tortona, design, moda, luoghi dove proprio il sindacato non c'è. Questo per dire che esistono, adesso questa è una semplificazione esagerata, ma può rendere l'idea. Diciamo che il consumo è il luogo più forte di produzione simbolica che l'impresa può portare. Si parlava di just in time, che la domanda guida la produzione, significa questo. I brand, che sono questo modo di concepire la vendita, sono un insieme organizzato di suggestioni, organizzano le suggestioni che rivestono le merci che ti vendono. Insomma, questa è una semplificazione. Il conflitto, ma non parlo del conflitto con la tuta da metalmeccanica ed altro, quel momento di coesione, di complicità fra lavoratori ed altro, crea a sua volta è una produzione simbolica altrettanto forte, rompe quella fidelizzazione che l'impresa e il consumo creano all'interno della società, che poi è alla base, come dire, alla base del consenso berlusconiano. Arrivo al dunque, per dire, dopo tutto questo, dopo tutto questo percorso, dopo, come dire, aver sperimentato nuove forme di conflitto ed altro, dopo aver pensato, cioè, aver creduto, insomma, che queste cose potessero, potessero spostare a sinistra le persone che ne venivano intercettate, eccetera, eccetera, abbiamo cercato di confrontarci anche noi con, per l'ennesima volta, perché l'avevamo già fatto prima, abbiamo cercato di confrontarci con le istituzioni sindacali e politiche. E fondamentalmente anche noi abbiamo incontrato Rinaldina, a parte che eravamo alle 5 oggi in camera del lavoro per discutere questa questione del welfare metropolitano, perché la FIOM comincia per la prima volta a pensare. Ma adesso questa la devo dire, il problema della FIOM non è stato che ha detto no, no, no, no, questo potrebbe essere un problema, ma non è stato quello il problema è che ha detto un sì, un maledetto sì, in cui hanno deciso nella fine degli anni 90 di sacrificare una generazione, che era la generazione precaria, per tutelare il resto del mondo, vendendo l'anima al diavolo e perdendo il resto. Si sono fatti fregare. Questo è stato il sì. Il sì maledetto, certamente non sarebbe stato sufficiente dire no. Certo, bisognava comprendere le trasformazioni, certo, tutto verissimo, tutto verissimo. La questione è che la sconfitta è iniziata in quel momento maledetto in cui hanno detto sì. Sono passati come dei bulldozer su una generazione, che sono diventate due generazioni, tre generazioni, quattro generazioni, e mo stanno perdendo tutte. Tenete conto che è impossibile, come dire, gli operai salgono sui tetti, sulle gru e su altro. C'è anche una forma di tutela che hanno gli operai, che sono gli ammortizzatori, che cito Boeri, la voce.info, insomma, non è che è che riguardano il 25% delle persone che rimangono disoccupate. Capite che quella forma di tutela almeno dà la possibilità agli operai, certo, è una forma ambivalente, però di opporsi per 7, 8, 9 mesi alle situazioni ambigue molte volte del licenziamento, dei fallimenti, della fuga dell'amministratore con casse ed altro. E allora a questo punto arrivo ad una provocazione per poi arrivare sulla proposta. La provocazione è, la proposta è quella di occuparsi del mercato e non del mercato del lavoro. E io dico che mi occupo dei precari perché sono precario. Allora, noi dobbiamo dotare cioè, i precari o i lavoratori in generale, o tutto quel tessuto produttivo che è un po' precario, lavoratore disoccupato, fluido comunque all'interno, come dire, del magma denso, intenso, partecipato, emotivo della produzione, perché la produzione non è più semplicemente il lavoro, ma è una roba ben più complessa. Dobbiamo dotare i precari degli strumenti per fare una grandissima selezione naturale sulle imprese. Le imprese che cercano di, come dire, di agire profitto, semplicemente abbassando il costo del lavoro, cioè sfruttando il più possibile, devono essere imprese massacrate. Così gli imprenditori non investiranno più, come dire, risorse in guadagni facili dovuti al fatto che esistono legislazioni, condizioni e istituzioni che tutelano lo sfruttamento. In questa maniera, voglio dire, ognuno fa il proprio mestiere. Evidentemente, in questa maniera si andrà ad aiutare, lo faccio come una provocazione, l'innovazione. Perché finché una persona è in grado di aprire un'azienda e prendere 20 CoCoPro e prendersi l'appaltino e guadagnare, non si sbatterà per andare a fare innovazione. E allora vogliamo aiutare il mercato? Facciamo una selezione naturale. Creiamo tutta una serie di strategie che possano andare a creare conflitto, perché io penso che il conflitto, adesso non ne voglio fare un'esegesi, però io penso che il conflitto sia ancora un modello, uno di aggregazione, uno di complicità e tre di selezione, fondamentalmente. La proposta del welfare, una volta che ci siamo fatti tutto il pippone sulla questione dei Findus, siamo arrivati al reddito. Fumagalli era un grande precursore del reddito, parlava del reddito di cittadinanza ed altro. Noi non ne volevamo sentire parlare. Si diceva prima conflitto e poi parliamo del reddito. Qual è il nostro grande timore? Il nostro grande timore si chiama, guarda, un pamphlet, ve lo consiglio, una roba che non mi ha fatto dormire neanche la notte dei morti viventi, mi ha fatto questo effetto quando l'ho visto a 3 anni con il mio cane. Nazismo e classe operaia. Nella Repubblica di Weimar c'era un sistema sociale abbastanza avanzato. Questo sistema sociale vincolava un'elargizione di reddito, tra l'altro settimanale, per i disoccupati, che erano tantissimi, all'interno di un sistema produttivo fatto da medie e piccole imprese, una roba molto simile all'Italia adesso, vincolava l'elargizione di reddito alla presentazione settimanale delle persone in questo box enorme fatto di tanti scompartimenti con tanti sbirri e tanti soldati, e questo cosa ha creato? Ha creato il nazismo, il più grosso meccanismo di controllo sociale esistente. Cioè, praticamente, se una persona aveva trovato un posto di lavoro ma si rifiutava di lavorare perché era un posto stupido o di merda, come si dice, aveva fatto conflitto ed altro, non gli veniva dato il reddito. In questa maniera si è tarpato le ali a quelli che erano i meccanismi, appunto, di difesa territoriale e lavorativa di quella che era al tempo la classe operaia, una forte classe operaia, tra l'altro. Allora, noi vogliamo parlare di reddito e lo facciamo solo, come dire, con una precondizione. È necessario parlare di forme di reddito universali e incondizionate. Nel senso che la precarietà, adesso questo, per chi è precario questa roba è ovvia, è una forma di ricatto assoluta. È necessario porre un cuneo all'interno di questo ricatto. Bisogna aumentare le possibilità di scelta del lavoratore. Perché è necessario porre, aumentare le scelte del lavoratore? Perché tramite la scelta si innesca il rifiuto. Il rifiuto significa: cazzo, mi vuoi dare 900 euro? Ma io quasi quasi me ne sto a casa per 400 euro, guarda, se mi danno una forma di reddito. Ma questo rifiuto non sarebbe mai un rifiuto fine a se stesso, ma sarebbe una forma per dire: però, se me ne dai 950 vengo, se no preferisco stare là a casa con 400 euro. Certo, fa molto paura l'idea di assistenza, ma è per questo che il welfare metropolitano si è strutturato in modo da non fornire assistenza, perché pensiamo che aumentando la scelta, aumentando il rifiuto, tramite il rifiuto si possa creare conflitto, tramite il conflitto si possa creare quella struttura, come dire, di tutela sull'idea del reddito, perché come ho detto prima, il reddito e le leggi sono dello scheletri senza anima, che possono essere positivi o negativi. Anzi, a dirla tutta, come nell'esempio della Repubblica di Weimar, cioè passare da cioè da una precarietà gestita dal mercato del lavoro ad una precarietà cogestita fra mercato del lavoro e Stato è la cosa più pericolosa che possa accadere. Quindi l'idea di reddito è subordinata a due condizioni. E poi sono arrivato al WFM metropolitano che ve la dico in quattro parole. Uno, aumentare il range, cioè la possibilità di scelta del precario. Due, che questo reddito sia il frutto di una battaglia collettiva che unisca operai, migranti ed operai. Che sia, no, scusate, operai, migranti e precari. Che sia una battaglia, e qua sono le cose che stiamo andando a costruire, lo si è fatto in 16, lo si è fatto con gli stati generali della precarietà, è una cosa che sta prendendo abbastanza piede, che riesca, come dire, ad essere subordinata al fatto che si decida di ritornare nella precarietà per fare conflitto, senza aspettare che siano gli operai ad indicare la via o senza aspettare che sia un partito a farlo. Il welfare metropolitano si compone di quattro parti, ovviamente una declinazione regionale di un'idea nazionale, ma noi pensiamo che la declinazione regionale sia la migliore, perché effettivamente, come dire, proprio per non dare assistenza, come dire, per non fornire quest'idea di assistenza prima della crisi, adesso lo dico così, adesso i dati sono cambiati, prima della crisi c'era il 2,6-2,8% di disoccupazione in Lombardia e il 4% a Milano, che significa praticamente precarietà a tempo indeterminato, cioè che le persone saltano da un lavoro all'altro con una certa continuità. L'idea è quella appunto di declinare regionalmente cercando di essere più aderenti possibile al tessuto produttivo. In questo caso il welfare metropolitano è composto da una cassa sociale per il reddito, cioè una forma di continuità di reddito, chiamiamolo così, una cassa regionale, una cassa per sociale per i servizi, che siano garantiti, come dire, trasporti, formazione, media, cultura e via così. Questa è completamente, come dire, subordinata, forse addirittura, come dire, propagandistica. La riduzione, la richiesta della riduzione delle tipologie contrattuali, che sono un numero esagerato, poi, come si diceva, il contratto interinale, io non so adesso quante persone possa riguardare, ma comunque già il contratto interinale riguarda qualche centinaio di migliaia di persone in Italia, un numero, come dire, limitato, non so il contratto a chiamata, me l'hanno offerto però qualche giorno fa un contratto a chiamata, non pensavo che esistesse, e via così, cioè una riduzione, e questo è propagandismo perché è necessario comunque fare chiarezza all'interno di una situazione che tutti percepiscono come impossibile, cioè inestricabile, e quindi un salario minimo legale, un salario minimo salario minimo orario che possa evitare, come dire, il dumping, meccanismi di dumping sociale, cioè nel senso, visto che già lo Stato ti dà dei soldi, io te ne do molto meno, che così sopravvivi fondamentalmente. Però ripeto, questa proposta del WF metropolitano che qui è esplicata bene, ci sono anche tutti i costi di spesa, lo andiamo a prendere, immaginate la Novartis che per il suo cazzo di vaccino si è presa 1860 euro così cash flow, per non aver, come dire, curato nessuno, ma non è questo, io voglio dire, qua ci sono delle proposte concrete e via così, ma prima ancora per il reddito noi dobbiamo decidere su quali posizioni assestare un ulteriore scontro di civiltà, e questo lo dico senza troppe recrudescenze d'altro, dobbiamo decidere, e questo forse il PD se lo dovrebbe chiedere più che altro, se il conflitto, cioè se voglio dire, se quello scontro che esiste fra le condizioni precarizzate di una persona e le imprese che fanno profitto, che continuano a fare profitto, se il conflitto può essere ancora un motore di civiltà. E adesso chiudo dicendovi quello che pensiamo noi sia stata la precarietà in Italia, perché la Medesta è in 20 città europee, addirittura in 4 giapponesi, che non ci abbiamo ancora capito niente cosa pensano là della precarietà, però stiamo cercando di fare dei momenti di incontro e via così. Comunque, la precarietà si sta diffondendo ovunque, ma in Italia ha assunto, come dire, una forma comprovabile nel mero esercizio dei dati. La precarietà è un modo di trasferire in condizioni di stagnazione o comunque di, come dire, di sviluppo delle condizioni economiche generali, di trasferire ricchezza da una parte all'altra della popolazione, senza produrre ricchezza in generale, semplicemente spostando percentuali di ricchezza, in pratica come è successo, dal lavoro ai profitti. Punto e basta. Questa è la nostra opzione. Il reddito sta sullo sfondo e io penso che l'esperienza del punto San Precario negli ultimi anni dimostra che, come dire, sei degli sfigati come noi, che oggi mi sono alzata alle 6, ho finito di lavorare alle 8 quando mi ha chiamato Martino, che l'ho maledetto proprio, cioè, riescono senza risorse e senza tempo a mettere in moto dei meccanismi di solidarietà, complicità, cospirazione perché non perché ci troviamo come dei carbonari sotto le bettole, perché muoversi nel mondo della precarietà significa fondamentalmente essere super ricattato e non potersi esporre fino all'assestamento del colpo, come dire, quello che si spera sia fatale. Se delle persone come noi sono riuscite ad esercitare del conflitto, immaginatevi cosa avrebbero potuto fare strutture sindacali che hanno una storia centenaria ed un'infinita legittimazione, e non è che non dovevano dire no, no, no, non dovevano dire quel fatidico sì, e poi dovevano dire una cosa, parliamo delle trasformazioni. Poi, voglio dire, le imprese innoveranno, non innoveranno. Io so solo una cosa, di cosa faranno non ho voce in capitolo, di cosa hanno fatto su di me lo so perfettamente. Quindi sono anche cazzi loro, cioè fondamentalmente. Tanto non hanno innovato, io sto peggio. Almeno potevamo fare a mezza, cioè.